Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Ho avuto la fortuna di nascere in questa splendida città posseduta da un mare che era altrettanto splendido. Io ricordo che il primo mare verticale l'ho conosciuto con una maschera antigas adattata all'attività subacquea, e il mare verticale di allora mi è apparso come la zecca in cui il sole ancora riusciva a coniare le sue monete d'oro. Sapevamo che la cittadinanza amava papà tanto quanto lui l'amava, tanto quanto lui amava la sua città e i suoi concittadini. Ieri ero un po' triste e una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: siamo venuti a salutare il nostro mito. Signora, non essere triste, non deve essere triste, i miti non muoiono mai. Lo sconfinato amore di Enzo Maiorca per il mare, per il suo mare, per la sua Siracusa, e l'infinito affetto che la sua città e l'intero mondo del profondo blu gli hanno tributato, come ricorda la figlia Patrizia, l'abbiamo sentita appena pochi giorni fa, per l'ultimo saluto al grande apneista siciliano scomparso all'età di 85 anni. E pensare che da piccolino Maiorca aveva addirittura paura di quel profondo blu che poi diventerà, a suon di immersioni record, il suo habitat naturale. Oggi non vogliamo ricordare il campione autore di infiniti primati di profondità, ma scandagliare i fondali dell'animo dell'uomo Maiorca, alla scoperta della sua rete di amicizie, di valori, di passioni, per arrivare poi a individuare l'eredità che il grande siciliano ci lascia. Un viaggio nel profondo blu che passa attraverso chi Maiorca lo ha incontrato, conosciuto, ascoltato. Umberto Pellizzari, pur avendo avuto come maestro Jacques Maillol, l'apneista francese che di Maiorca è stato il grande rivale, si è più volte confrontato col grande siracusano, suo mito fin dal primo incontro. Io l'ho visto la primissima volta quando ero ancora ragazzino, aveva tenuto questa conferenza vicino a Milano, io ero nel pubblico ed ero andato poi a salutarlo, a stringergli la mano, e mi ricordo, custodisco ancora questo suo autografo che mi aveva fatto probabilmente più di 30 anni fa. Perché già allora per me era un mito, non un riferimento importante. E era una persona che non andava nulla per scontato, non si preparava per quello che all'epoca potevano capire in termini di preparazione, di allenamento in una disciplina così particolare come l'apnea. Dava sempre il massimo in tutto e credo che dai suoi amici, quelli che lui riteneva amici, pretendeva anche il massimo dell'amicizia, ed era una cosa molto bella questa. Era una persona molto, molto bella, molto carismatica, doveva scoprire fino a dove il suo corpo poteva andare da un punto di vista subacqueo e fino a dove l'amicizia teneva. Ecco, era un talebano da quel punto di vista. Parole, quelle di Pellizzari, che ci portano in profondità già al cuore dell'uomo Maiorca. Famiglia, amici, mare, Sicilia, Siracusa, sfida, scoperta, dialogo, confronto, rispetto. Forse il vocabolario del siracusano è tutto qui, in questi elementi essenziali e fondamentali. La mia generazione è iniziata ad andare sott'acqua ammirando le gesta di questo grande uomo, di questo grande apneista, di questo pioniere dell'immersione in apnea. Maiorca e Maiorca sono stati dei riferimenti importanti e dei grandi campioni, non lo scopro io, e io ho conosciuto Maiorca poi, diciamo, negli ultimi 15 anni, non prima, non sono mai andato in acqua con lui, non mi ha mai allenato, io sono dalla scuola di Jacques Maillol, però ecco, il Maiorca campione di apnea non lo scopro io, il Maiorca grande uomo è stato per me una sorpresa importante, perché non immaginavo di potermi trovare di fronte ad una personalità così, così bella, un uomo così carismatico, pieno di sani principi. Per lui l'amicizia, la correttezza erano dei fondamentali di vita, per cui per me è stato molto bello conoscerlo anche e soprattutto da questo punto di vista. Diversi nell'approccio al mare, ma anche in quello con i propri discepoli, Enzo Maiorca e Jacques Maillol, ricorda Pellizzari. Modi diversi di confrontarsi con la vita, di dialogare col profondo blu, sottolinea il plurirecordman mondiale. Maiol, Jacques Maiol, che è stato il mio maestro, ha sempre tenuto un po' la distanza tra noi due, cioè lui era il guru, il maestro, e io ero l'allievo, quindi questa distanza doveva essere mantenuta, lui l'ha sempre voluta e pretesa. Maiorca, non lo so se ti è mai capitato, quando incontri delle persone nella tua vita ti rendi conto da subito che c'è un feeling molto bello, un'amicizia sincera e che non puoi frenare, no? Qualcosa di magico, un'alchimia strana che viene fuori. E con Maiorca questo è successo, cioè mi ricordo che dopo un'ora eravamo lì abbracciati a raccontarci, gli chiedevo di parlarmi di lui, dei record, ed è stata una bellissima amicizia che è continuata e continuerà per sempre. Per cui ecco, questa complicità che da subito è partita tra di noi e che è stata una cosa che non trovi così facilmente nelle persone che non hai conosciuto per buona parte della tua vita. Questo è forse la cosa più bella che mi porto dietro di lui. E poi le ore trascorse insieme a farmi raccontare le sue avventure, io ogni volta che lo ritrovavo gli chiedevo di raccontarmi questo suo primo tuffo a 50 metri, quando la medicina al mondo, non 100 anni fa, 40 anni fa, sosteneva che l'uomo oltre i 50, e quindi di conseguenza Maiorca, se lo avesse tentato, oltre quella quota sarebbe imploso, sarebbe morto sotto il peso dell'acqua, la pressione dell'acqua. E quindi chiedevo a lui di raccontarmi sempre quell'aneddoto, quella storia. Mi diceva, ma già te l'ho raccontato tante volte. Dai, racconto di nuovo. E sono tante le immagini che mi vengono fuori adesso di lui, degli incontri che abbiamo avuto in questi 15 anni. L'impossibile è un'opinione, amava ripetere il signore degli abissi. Ancora oggi Pellizzari ama ricordare invece com'era nata quella convinzione. Mi parlava spesso di questi limiti che gli venivano imposti dalla medicina e che lui, come dire, non ha mai accettato. Lui diceva non potevo permettere a queste persone che sott'acqua non erano mai andate, o perlomeno non erano mai arrivate là sotto, di chiudermi in una gabbia, limitarmi nelle mie potenzialità. E raccontava di questo incontro avuto con il professor Gabarru, che era il massimo riferimento mondiale della medicina subacquea, era il fisiologo dell'Equipe Cousteau, quindi tutti facevano riferimento a lui, e questo Gabarru sosteneva che oltre i 50 metri l'uomo si sarebbe schiacciato. E quando Enzo Maiorca tentò di superare proprio appunto questa barriera, questo muro, Gabarru scese in Sicilia e cercò di convincerlo, due giorni prima che tentasse il record, a cambiare idea. Lui fece gli onori di casa, raggiunse Gabarru con la sua squadra di ricercatori, parlavano tra di loro in inglese e mi raccontava che dopo circa due ore di tentativi per fargli cambiare idea, Gabarru disse: quello che tenterai tra un paio di giorni è impossibile. E Maiorca, Enzo, rispose a Gabarru con la frase: impossible is an opinion, l'impossibile è un'opinione. Ecco, questa frase ti dà l'idea chiara di quella che era la personalità di Enzo Maiorca. Il viaggio nel grande blu è anche un percorso dentro se stessi, che ti cambia, che ti segna. Maiol, dilaniato dalla depressione, si uccide nel 2001. Maiorca perde nel 2005 una delle figlie, Rossana, che aveva seguito il papà proprio nella passione per l'apnea, ma che viene vinta da un cancro. Vite che si inabissano per tornare poi in superficie, perché quell'acqua non inghiotte, ma quasi accarezza, che riesce a entrarvi in simbiosi. Ricorda ancora Pellizzari. Da un punto di vista subacqueo, se siamo arrivati, se io sono arrivato a 150 metri, è perché ho studiato Maiol e Maiorca, ho cercato di capire da loro come l'uomo doveva proporsi al mare, quindi non tanto la parte tecnica, la parte mentale, la filosofia del mare, l'atteggiamento che noi dobbiamo tenere di rispetto per questo grande blu, come viene definito. Quindi sicuramente questo atteggiamento molto di rispetto. Lui, Maiorca, diceva: io ho paura del mare, ho paura della profondità, non ha mai avuto un atteggiamento così di arroganza nei confronti del mare. E io questo ho cercato da subito di farlo mio. Quindi più che tecnicamente, perché siamo andati ben oltre le loro quote, questo atteggiamento di umiltà nei confronti del mare, e solo se sei umile il mare ti permette di fare quello che poi con l'allenamento e con l'adattamento alla quota puoi arrivare ad ottenere. Quindi sicuramente ci portiamo dietro questo, io personalmente mi porto dietro questo, e poi, come ti ho detto, un ricordo di un uomo straordinario con, come dire, per il quale l'amicizia, la famiglia, la sua terra erano dei valori, sì, che erano assolutamente fondamentali. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia sulle tracce di Enzo Maiorca. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Il mare per me, diciamo che parte della mia vita, parte integrante della mia vita, perché... Vede, io da bambino abitavo proprio in riva al mare e questa casetta in cui abitavo aveva una terrazza che si apriva sul mare largo. Io mi ricordo, avrò avuto, non so, 3 anni, 4 anni, non di più, passavo delle ore intere a contemplare il mare e mi chiedevo tante volte: chissà che cos'è che c'è sotto la pelle del mare. Amore senza fine, legame indissolubile, quello tra Enzo Maiorca e il mare, come stiamo rivivendo oggi a Olimpia. Ma Maiorca, con la sua attività pionieristica, ha aperto la via delle profondità marine anche alle donne, a partire dalle figlie Rossana e Patrizia, che ne hanno, soprattutto la prima, scomparsa, lo ricordiamo, per un cancro nel 2005, seguito le orme come apneiste. E proprio con una campionessa dell'apnea, allora vogliamo oggi parlare del grande siracusano. Ilaria Molinari, 4 record italiani di apnea profonda, 3 volte campionessa italiana e un bronzo mondiale di apnea. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Grazie, ciao. Ilaria, dicevamo di Maiorca come straordinario esploratore dell'impossibile, ma è stato anche colui, ricordavamo, che ha aperto la via delle immersioni in apnea proprio per voi donne. Prima di lui, per voi, il mare sembrava proprio troppo stretto, eh? Ah sì, non eravamo proprio contemplate nella scena, quindi è stato lui, infatti hai ragione, è stato lui che insegnando alle figlie tutta la sua esperienza e tutta la sua bravura, la sua vita di mare, ha tirato su altre 2 campionesse, nel senso grandi e altrettanto brave come il papà, nel senso che nel loro campo hanno fatto veramente tantissimi record e tantissimi, hanno raggiunto tanti traguardi in mare, appunto non sempre solo legati alla profondità del record, ma anche di hanno ereditato un po' questo saper trasmettere l'amore e il rispetto profondo per il mare. Questo è quello che Enzo Maiorca ha sempre rimarcato in tutti i modi e che Patrizia, la figlia rimasta, tuttora dice in tutti i modi. Il modo in cui potete onorare mio padre è proprio rispettare, amare, rispettando amare e amando il mare. Con Rossana invece, e in particolare, hai vissuto una rivalità sportiva a distanza, visto che proprio nel 2005 hai battuto il suo primato in assetto costante con attrezzi. Ma in realtà io e Rossana non ci siamo mai incrociate a livello di come tempi agonistici, cioè quando io ho iniziato e lei aveva già smesso da tempo, anzi purtroppo quando io ho iniziato lei si era ammalata da poco e di lì a pochi anni poi è deceduta, quindi quando io l'ho conosciuta in realtà era già poverina, non stava molto bene, ecco. Però è stato bellissimo poter conoscere anche lei e in seguito appunto tutto il resto della famiglia. Io quindi non l'ho mai assolutamente vissuta come rivale, perché ha maggior ragione perché rappresenta la storia e chi grazie alla quale io ho potuto poi, io e altre mie compagne di apnea abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto magari o che faranno in seguito, per cui non ci può essere rivalità con qualcuno che ha costruito il cammino su cui poi vai avanti, insomma, c'è rispetto, questo sicuramente sì. Un aneddoto particolare che ti lega invece a Enzo Maiorca, di cui hai del resto condiviso anche l'allenatore. Un aneddoto che sicuramente mi piace ricordare è il mio primo record italiano con cui ho superato, mi fa quasi dispiacere dire questa parola perché non l'ho mai vissuta come una vincita sportiva, una vittoria sportiva, ma l'ho sempre prima vissuta come un onore, quindi di avere un record, di superare il record di una delle sue figlie, di Rossana, e del mio primo record in assetto costante di 59 metri e proprio a Siracusa, quindi nel loro mare. E è stato per me un privilegio enorme. E quando mi allenavo con Nuccio a Siracusa mi ricordo che un giorno preparammo il cavo, quindi per la profondità, per le gare appunto che si fanno in mare, e mi disse: guarda che stai scendendo sul cavo su cui si allenava Maiorca. E per me è stato un colpo al cuore, perché ovviamente era un'emozione enorme pensare di scendere lungo i metri che aveva percorso lui 20 anni prima, 30 anni prima. Grande campione, ecco, ma soprattutto un paladino del mare e della difesa dell'ambiente, Maiorca, vero? Esatto, ha prevalso questo e soprattutto, come hai detto bene tu, nonostante tutti i risultati raggiunti, importanti, quello che poi ha fatto innamorare di più la gente è stata tutta la poesia che lui ha saputo tirar fuori da quello che ha vissuto in mare, quindi che poi si è tramutato anche appunto nella difesa del mare, ma anche nel parlare del mare. Sentirlo parlare era veramente ipnotizzante e interessante per chiunque, grazie alla sua enorme cultura anche sui miti greci, a tutte le storie, la letteratura scritta sul mare, ma anche grazie alle esperienze personali che sapeva riportare in un modo veramente eccellente. Ecco, ancora tornando all'apnea in rosa, aiutaci a capire i numeri dell'apnea al femminile oggi, ecco, quante siete? Ah, guarda, adesso le donne sicuramente sono aumentate tantissimo e stanno aumentando in modo esponenziale. Per dire, quando io feci il corso d'apnea 16 anni fa ero una su 19, per darti un numero di riferimento. Adesso quando faccio gli stage, mi è capitato quest'estate di fare un corso, appunto uno stage, un corso intensivo di qualche giorno in Puglia, e c'erano più donne che uomini. Questo ti fa capire tutto, anche perché sono sempre di più le donne che diventano istruttrici, che fanno gare e quindi danno anche lo spunto, no, a chi non ha mai fatto questo sport di iniziare, parlando di donne appunto. E nella subacquea, nel mondo della subacquea in generale, attualmente in Europa si contano più apneisti che persone che scendono con le bombole, mentre prima era impensabile questa cosa. Gli apneisti erano sempre un gruppettino così sparuto, ora invece sono veramente in crescita, proprio perché l'apnea comunque ti permette di vivere il mare a pieno e in modo molto naturale, quindi anche gli altri sport sono subacquei, sono belli, ma l'apnea è sicuramente considerato il più puro, quello che ti può dare le emozioni più dirette, perché non hai altri mezzi se non te stesso, insomma, quindi non c'è nessun tipo di aiuto esterno, ecco. So inoltre che tu, da campionessa apneista, ti sei trasformata in vera e propria sirena, eh? Spiegaci un po' meglio, che la cosa è curiosa. Sì, è nata come gioco, perché 3 anni fa mi hanno chiamato per esibirmi, in realtà in veste di apneista, quindi facendo un po' di tuffi, di immersioni davanti al pubblico, nella piscina che si trova a Monte Grotto Terme, la Y-40, che è attualmente la più profonda del mondo. E io, visto che avevo il pallino delle sirene da una vita, ho detto: ma sentite, ma se mi mettessi il vestito, insomma un costume da sirena? E loro, un po', non dico perplessi, ma un po' fidandosi di me, hanno detto: vabbè, ok, facciamo l'esibizione da sirena. E io allora, quando proposi questa cosa, non avevo neanche la coda da sirena, quindi ho dovuto cominciare da zero. Però poi ha avuto successo questa cosa, nel senso che ha emozionato molto, e anche qui torno al fatto che forse a volte sì, è ovvio che emoziona la profondità e il raggiungimento sportivo, ma spesso emoziona anche magari un gesto bello in acqua o la naturalezza, quello che puoi trasmettere, no? E Maiorca, ricollegandomi a lui, una frase che a me ha sempre molto colpito, che di solito ripeteva, era che diceva: posso trovare me stesso a 100 metri come a 3 metri, questo per intendere che sì, è bella la profondità, ma per stare bene in mare, per provare emozioni forti in acqua, non è necessario sempre e solamente catapultarsi a tot metri, a volte basta anche poco e provare tantissimo, quindi questa è un po', secondo me, la mia interpretazione della sirena in chiave Maiorca, dai. E forse è proprio questa l'eredità più bella che ci lascia Enzo Maiorca. Ilaria Molinari, in bocca al lupo allora per le tue sfide da sirena, e grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario, grazie mille, ciao a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.